Ehi, valor di vittime, vini, pasta e puttane, sì. Forse autobiografia che il simbolo della mia cruce è un cane. Io non ho fama, ho fame, vivo al teatro della miseria, fra da cui un re infame stupra il reame. Qualcuno non ha fiducia e rifiuta ciò di cui parlo. Fanculo, Milano brucia, fra la strada mi chiede di farlo, perché nulla tenente, nulla facente, e a questo mondo non dà nulla per niente. Un dente perdente, chi nasce perdente, ha un fuoco nelle viscere, vincere per sempre. Spinto dal lato sinistro, anche se oggi il diavolo è mal visto, è meglio ammazzare in nome di Cristo. Se vuoi chiedere ai miei fra, chi crede al dogo club o al sistema, piaga la schiena della mia città. Non credo in Dio nella sua santità, tu abbi fede, io non credo nemmeno alla verità. Trasmetto dal cosiddetto primo mondo, solo di nome, ora affermo questo secondo. Lo sfondo non vuole cambiare, io voglio farlo con le mie mani. E i cowboy perdono con gli indiani, e puoi stravolgere il business della musica e i suoi piani, come è stravolto il vero sui quotidiani. Chi non ha nulla da dire sta zitto, col cervello in affitto, da chi uccide la cultura intanto trae profitto. Sarò lo sveglio tra i dormienti, l'opinione tra gli indifferenti, la I maiuscola di indipendenti, il cash agli indigenti, ferro vuoto in mano ai tuoi agenti. Programmo i missili o versi più intelligenti, la rivolta dei quattro elementi, sorseggio green croventi, fraseggio aspetto il peggio in tasco solo due da venti. Ragione muore, tu gonfi il tuo capitale, io resto al suo capezzale, tutto dalla G capitale. Buonasera concittadini, siamo su Milano Virus, su Radio Virus, le voci della città infetta. Come vi avevo preannunciato nella scorsa puntata, stasera si arriva a bomba sulle voci degli infermieri del PAT. Gli interventi sono abbastanza forti e provengono da chi è stato costretto a togliersi i guanti e mascherine dai dirigenti. Una pratica che purtroppo è comune, è stata comune in molte dei posti di lavoro di Milano nelle prime tre maledette settimane del virus. Ricordiamoci un piccolo excursus su come è nato tutto. Quindi 20 febbraio il primo caso, nonostante girasse già da più di 15 giorni, a 30 minuti, 35 minuti di treno da MM Rogoredo, quindi vicinissimo a Milano. Allora, siamo al 20 febbraio, scatta l'emergenza. Scatta l'emergenza e nel più albergo Trivulzio tutto continua come niente fosse. Tenete conto che i parenti solo la prima dai primi giorni di marzo sono stati costretti a non entrare più nella più antica struttura assistenziale di proprietà del Comune di Milano e della Regione. Ricordiamo che il Comune di Milano nomina 3 dei 5 componenti del Consiglio di Indirizzo più il Presidente. E quindi è una realtà abbastanza complessa che prende molto di quello che è la dirigenza e il modo con cui sono stati trattati i beni pubblici e la sanità pubblica. Allora, quindi avremo una voce di un'infermiera che, come altre, non ha avuto paura di poter parlare, anche se la maggioranza degli operatori sociosanitari sono precari, sono dipendenti cooperativa e quindi hanno una sindacalizzazione bassa, RLS che probabilmente non sono riusciti a intervenire in tempo, ed è successo quello che sapete, una macelleria. 230 morti da gennaio del 2020 sino ad oggi. E continueremo poi con le voci di chi ha i genitori dentro, quindi chi è morto e chi è ancora vivo. E sentiremo Privitera, che è il figlio di una signora, di una degente, che ha lanciato questa grande su change.org, è stato il primo a lanciare l'allarme, una petizione che è arrivata a 40.000 firme, che vi consiglio di firmare anche voi, la guardate, a tutela dei degenti e dei lavoratori del più albergo Trivulzio. Continueremo poi con le voci all'interno del Comune di Milano. Avremo le voci di Via Larga, di un dipendente, purtroppo la voce si sente male perché è contraffatta, visto che il Comune di Milano si è comportato in maniera abbastanza criticabile per quanto riguarda i suoi lavoratori. Tenete presente che all'interno di Via Larga, per le prime tre settimane, così come nelle anagrafi, negli sportelli al pubblico, il salone tributi di Via Larga, le anagrafi di Piazzale Accursio, di Viale Padova, gli sportelli dell'edilizia, dell'urbanistica, di Via Bernina 12, Maciacchini, Sono rimasti aperti per 3 settimane, quindi dal 23 febbraio sino al 13 marzo, molto spesso privi di qualsiasi misura di protezione. Non c'erano i vetri agli sportelli, non c'erano le mascherine, non c'erano i guanti, nessun filtro agli ingressi, quindi stanze affollate. E i lavoratori raccontano la loro esperienza. Abbiamo il dato di 4.000 morti, 4.000 morti, il mese nero di Milano, dal 17 marzo ad oggi abbiamo registrato 4.000 morti. Tenete presente che in media nel 2018-2019 i morti erano 40-50 al giorno, siamo arrivati fino a 228 decessi, punti di 220 decessi. Oggi, ad esempio, venerdì 17 aprile, ne sono stati registrati 131. Poi avremo le voci dei dipendenti comunali che denunciano diversi contagiati. Un deceduto, un giropost deceduto, più 4 suoi colleghi contagiati, uno dei quali è in ospedale. Poi delle persone positive all'ufficio decessi, sempre in via Larga 12, dove i lavoratori chiedono misure più stringenti, un filtro agli ingressi, misure della febbre di chi arriva, quindi pompe funebri e parenti. Chiedono pulizie e disinfezioni più radicali degli ambienti, chiedono che non ci sia tutta quella gente che affolla le stanze e i corridoi. Immaginatevi che folla c'è in questi giorni nell'unico ufficio aperto al Comune di Milano. Poi si segnalano 2 colleghi al Castello, uno all'area tecnica, uno in via Pirelli 30 che è in via di guarigione e uno in via Bernina 12 che è stato trasferito addirittura in Germania. Più decine di sintomatici che hanno i sintomi del coronavirus, ma per paura, per vergogna, per quello che volete voi, non l'hanno detto a nessuno. Si sono curati da soli a casa finché hanno potuto. Alcuni di loro sono stati in pronto soccorso, ma sono ritornati al lavoro, così come succede per migliaia di milanesi. Allora, poi avremo anche una parola critica per il video Omicidi a Milano non si ferma e sulla riapertura che purtroppo ha coinvolto i musei del Comune di Milano dal 2 al 6 marzo, con 151 biglietti staccati all'acquario. E i lavoratori del castello chiedono sanificazione perché dove ci sono stati dei contagiati sarebbe bene che venissero disinfettati gli ambienti. Poi avremo Junior con i ciclofattorini. Però adesso vi lascio alle voci dal PAT e all'interno dei lavoratori del Comune di Milano. Grazie, ciao. La situazione al Pio Albergo Trivulzio, carneficina potrei dire, 200 anziani circa deceduti e più della metà dei dipendenti a casa malati che hanno anche infettato le loro famiglie. Una domanda vorremmo fare alla direzione, perché? Perché si sono comportati in questo modo? Perché non ci hanno dato le mascherine? Perché hanno accettato pazienti non sapendo se erano positivi o meno, facendo infettare sia i nostri pazienti e i nostri colleghi? Solo questo, una domanda. Perché avete fatto tutto questo? Non è possibile, è inammissibile, non riusciamo a darci una spiegazione. La differenza è che noi, operatori ed infermieri, amiamo i nostri pazienti, ci fanno arrabbiare come i nostri figli, ma quando hanno bisogno di parlare, quando gli scende la lacrima perché sanno che sono lì e lì moriranno, soprattutto negli RSA, ci siamo noi, perché purtroppo a volte qualcuno non ha nessuno, ci siamo noi negli ultimi istanti. E in questi ultimi istanti sono quelli più terribili, sono quelli dove noi ci sentiamo impotenti, dove ci guardano e ci chiedono aiuto con gli occhi, dove l'ossigeno a 25 litri al minuto diventa per loro l'unica cosa per poter sopravvivere fino a quando? Un'ora, un giorno, non lo sappiamo. Ci guardano e noi cosa facciamo? Piangiamo, quando andiamo a casa si piange, perché la realtà è questa. Vedere persone che stanno soffrendo e non poter far nulla è una cosa devastante. Sta uccidendo psicologicamente tutti i lavoratori, o meglio, i lavoratori che tengono veramente a queste persone, perché per noi i pazienti sono persone, a differenza della dirigenza, non sono persone per loro, sono altro. Non posso dirvi cosa penso veramente, ma lascio a voi l'interpretazione di questo altro. E quello che chiediamo è che il prossimo che arriverà dovrà lavorare con il cuore, non col portafoglio, perché per noi sono persone, ricordiamocelo, non dimentichiamoci mai, abbiamo perso 200, forse più di 200 persone. Perché cosa? Vogliamo sapere perché ci avete vietato mascherine, eccetera, eccetera. Noi vogliamo tornare alla vita di prima, con qualcuno che abbia cuore. Ciao, Stefania. Mi chiamo Gianfranco Privitera, vivo a Milano e da agosto dello scorso anno seguo mia madre anziana, più di 90 anni, al Pio Albergo Trivulzio. Lì ci è entrata dopo una decisione sofferta perché è una persona ancora lucida, malgrado abbia il morbo di Parkinson e altri problemi, dopo che si è rotta il femore e quindi aveva fatto una riabilitazione sempre nella stessa struttura. Dopo questa decisione, l'impressione è stata buona perché il padiglione in cui è ospitata è moderno e medici, infermieri e operatori sanitari sono sembrati disponibili. Problemi sono iniziati quando è scoppiata l'epidemia e quindi è stato impedito ai parenti di entrare. Io ci andavo tutti i giorni per farla camminare, c'era anche una ragazza, una badante che andava. E quindi ho cominciato a chiedere notizie alla direzione su quale percorso di prevenzione ci fosse sia per gli operatori che per i pazienti e le risposte erano evasive. Poi le voci sono diventate voci sui giornali, i morti, e quindi io ho preparato insieme ad altri una petizione al Ministro della Speranza, che ormai ha quasi 40.000 firme, per chiedere di sapere come vengono curati, se ci sono i tamponi sia per il personale che per i pazienti. E perché venga inviata una task force sanitaria all'interno di quell'istituto, perché l'impressione è che non solo in quell'istituto, ma un po' dappertutto la parola d'ordine sia che questi pazienti anziani vengono lasciati indietro, perché le risorse sono poche e quindi si pensa prima agli altri. E il problema è che queste persone, anche se sono anziane, sono un patrimonio ancora vivissimo di esperienza, di affetto, di vita, veramente. E mi pare quasi che ci sia una forma di eutanasia che assolutamente non posso tollerare. Quindi io mi batterò perché queste persone vengano curate come tutti gli altri. In via larga mi riferisco ai servizi al cittadino. La situazione è veramente paradossale. Tralascio la comunicazione di informazione assolutamente mancante dall'inizio fino ai giorni nostri, ai giorni di adesso, ma quando ti senti dire dall'EPO, quindi dai funzionari o dai dirigenti, che la sanificazione degli uffici può essere richiesta a chi di dovere solamente se negli uffici ci sono casi di coronavirus o comunque qualcuno certifica che a casa per un sospetto di coronavirus, a me sembra veramente che siamo fuori da ogni, non lo so, siamo fuori dal mondo. All'ufficio decessi, per esempio, sembrerebbe, ma siccome le notizie non vengono mai ufficializzate, che sia il responsabile, che una collega sono a casa con dei sintomi ricollegabili al coronavirus. E c'è la certezza di una collega, il cui marito lavora in ospedale, che è stata messa in isolamento perché il marito è risultato positivo. Non mi risulta che oggi abbiano fatto una sanificazione o comunque che sia stata data comunicazione ai colleghi che ci lavorano. Penso che comunque la tutela della salute in questo periodo specifico sia la prima cosa che bisogna tenere in considerazione. E invece, almeno fino ad adesso, è del tutto secondaria. Mentre un'ambulanza sfreccia qua di fianco a San Carlo, diamo vita alla seconda presentazione di Radio Virus, Milano Virus, le voci della città infetta, con la parola spetterà Junior. Junior è uno dei pochi ex di San Precario che ha continuato a fare attività sindacale e si è specializzato una categoria tra gli ultimi di Milano, che sono i più precari, i ciclofattorini, i rider, come sono stati soprannominati. E c'è una realtà difficile di precarietà, di aziende che non riconoscono i dispositivi di protezione individuale, quindi non ci sono le mascherine, non c'è la disinfezione dei cassoni, non ci sono i guanti. Il Comune di Milano, bisogna dire che grazie all'assessora Tajani ha recepito molte delle proteste di collettivi e di attivisti sindacali e ha creato un punto di smistamento in Via Arena, dentro un edificio comunale, di fronte alla Darsena, per i rider. Quindi chi ci ascolta e fa quel lavoro, lì potrete trovare i guanti, le mascherine che le vostre aziende non sono state obbligate a darvi, purtroppo. E adesso però c'è un nuovo problema, che è quello dei servizi. I rider non sanno dove letteralmente fare la pipì e la popò, perché i ristoranti sono chiusi, cioè sono aperti perché gli danno il cibo d'asporto, però non sono aperti come servizi, e quindi hanno questo grosso problema. E adesso Junior vi racconterà quali sono i problemi di questi lavoratori, che è un lavoro essenziale nella Milano contagiata. Visto che ci sono tantissime persone che li stanno utilizzando anche per le medicine, per la spesa, per beni di prima necessità. Avremo poi, sempre riguardo alla situazione di aiuto che Milano ha messo in campo per tutte quelle persone che hanno bisogno del cibo, perché purtroppo Milano ha fame, sono state presentate, pensate, più di 35.000 domande per avere le tessere alimentari, le carte prepagate alimentari, che spettano a chi è diventato disoccupato a seguito del virus, quindi a seguito dello shock economico e sociale determinato dal contagio. E quindi queste 35.000 domande stanno per essere vagliate dagli uffici del Comune di Milano, di Milano Aiuto, delle politiche sociali, e verranno date a chi ha diritto, e quindi a tutte quelle persone che hanno, soprattutto bambini piccoli, chi non ha reddito, ha perso il lavoro, precari, partite IVA, collaboratori. Cioè il modello Milano si basa anche sui lavoratori precari, che sono quelli con poco reddito, magari abitano in affitto, non hanno casa propria e quindi fanno più fatica a sbarcare l'uranio, arrivare a fine mese. E avremo le parole di Roberto Sforni, che è un collega del Comune di Milano, che si è dato, come molti altri, si è dato disponibile, volontario, ai servizi di aiuto. Lui lavora in zona 5, in via Fabrizio De André, dove c'è un punto di smistamento, e ci racconterà il lavoro che fanno lui e i volontari dei Emergency e di altre associazioni, grazie anche al supporto del mercato comunale, dei mercati, nel preparare i pacchi per i cittadini in difficoltà. Vi lascio con una richiesta: mandateci i contributi audio e informazioni, ci state mandando tantissime, e utilizzeremo la piattaforma Milano X, che è un giornale che una volta era cartaceo, adesso è solo su web, Milano X, www.milanox.eu, e su Facebook Milano X. E metteremo tutte le voci dalla Milano contagiata, tutte le voci dalla città infetta. Ciao! Ciao Stefano, scusa l'orario, tanto ti mando l'audio che ti avevo promesso. Allora, questione rider. Il punto qual è? I dispositivi di protezione individuale continuano a mancare? C'è ancora parte della flotta o dei neoassunti che non li ha? E in più spesso la strumentazione comunque non è adeguata. Quelli che si stanno comportando in maniera un pochino più seria sono quelli di Just Eat, che ti fanno arrivare a casa, però con le loro tempistiche, un buon kit. Tutti gli altri invece si stanno comportando a rilento. Glovo li sta distribuendo, però in alcuni ristoranti. Deliveroo se la sta cavando con un li manderò, e Uber Eats ha messo a disposizione solamente rimborso spese di 25 euro una tantum. A forza di rompere le cosiddette, siamo riusciti finalmente a ottenere la promessa della distribuzione di 3.000 kit per i rider attraverso il comune. È stato aperto l'altro giorno un servizio. Insomma, questi kit sono meglio di niente, ma non servono a risolvere il problema, perché dovrebbero essere le aziende che dovrebbero prendere una serie di accorgimenti per favorire il mantenimento delle distanze di sicurezza davanti ai ristoranti. Dovrebbero coordinarsi con i ristoranti, dovrebbero coordinarsi con i lavoratori. Se decidono di distribuire le mascherine, i guanti e il gel ai ristoranti, dovrebbero far avere l'indirizzo e il luogo dove si trovano queste mascherine, magari in punti strategici e facilmente raggiungibili davanti, cioè, da tutti i rider. E magari indicando anche davanti al ristorante l'indirizzario degli altri luoghi dove recuperare le stesse. Le altre cose che chiediamo sono cose veramente semplici. Dare la possibilità al fattorino, che adesso c'è tutto chiuso, di usufruire dei servizi, dei bagni, perché anche, insomma, cagare e pisciare, insomma, sono un diritto, e in una città completamente chiusa questo non riguarda tanto la fase 2, però adesso in una città completamente chiusa, serrata, anche questo diventa un'esigenza e una cosa non affatto scontata. In una città che si definisce smart, ma poi non lascia spazio alla città pubblica e ai servizi di base. Gli altri punti sono un videomessaggio con la spiegazione di tutte le norme, dei protocolli, magari multilingue, perché spesso le comunicazioni sono in italiano o al massimo in italiano e in inglese, però questo non basta a coprire la diversità etnica e linguistica dei lavoratori. Mettere una segnaletica sempre multilingue con segnate le distanze davanti ai ristoranti, davanti ai supermercati convenzionati. L'ultima cosa importantissima è obbligare quei servizi convenzionati, come già avviene per i supermercati, col servizio di delivery food, ad avere una persona fuori, almeno nei punti critici, nelle situazioni critiche che le piattaforme conoscono benissimo. Anche perché spesso i rider gliele segnalano, una persona predisposta, magari facente parte dell'organico del ristorante, a ordinare la fila, perché sennò diventa veramente rischioso e difficile far rispettare la distanza sociale. E allora a questo punto si diventa pericoloso per i lavoratori che non hanno i dispositivi di protezione individuale. Se diventa pericoloso a sua volta per i clienti, non ha senso mantenere il servizio. Ultima cosa, abbiamo visto tutti quanti quella scena incredibile dei lavoratori che aspettano sulla banchina del treno il treno per andare nelle loro case fuori da Milano. L'altra cosa, una cosa fondamentale secondo noi, è che finalmente anche a livello territoriale Trenord faccia qualcosa e anche a livello pratico il comune faccia qualcosa a proposito del deposito biciclette. La roba ideale ovviamente sarebbe che le aziende mettessero a disposizione uno spazio, magari sorvegliato, dove è possibile prelevare biciclette aziendali. Questo ci rendiamo conto che purtroppo nel panorama super destrutturato del diritto diventa difficile da realizzare, anche se andrebbe preteso, però è anche in questo momento difficile a volte riuscire a tornare a casa, perché in alcuni casi alcuni macchinisti decidono di non far salire i fattorini con le loro biciclette. Non per la questione del biglietto, come viene spesso detta, perché i rider non pagano, semplicemente perché questi macchinisti sono rigidi, razzisti. È uno dei tanti fenomeni che accade, come accade quotidianamente, che alcuni rider con servizio notturno magari non hanno la possibilità, non viene data loro la possibilità di tornare in treno perché vengono lasciati giù. E allora succede che dormono fuori la stazione, cosa che non è auspicabile, a maggior ragione in una situazione d'emergenza totale come quella odierna, dove magari un rider vorrebbe stare a casa, protetto, avere il diritto di preservare la propria salute, non per il capriccio di qualcuno che invece ha il privilegio di stare a casa sua rispetto a lui, e avere un reddito garantito che gli permetta di stare con i suoi cari e in sicurezza. Tutto questo sappiamo che cioè è stato garantito soltanto a metà, i 600 euro sono stati garantiti, che comunque al di sotto della soglia di povertà sono stati garantiti soltanto a una parte dei fattorini, che sono quelli a partita IVA, e questa indicazione, questa volontà è in controtendenza rispetto all'orientamento generale della politica, del governo e delle amministrazioni, sia regionali che comunali, di aprire il servizio, di innescare i servizi e in generale tutto il settore, diversi settori nel mondo del lavoro, e di lavorare entrando nella fase 2. Questa fase 2 la vogliamo vedere. Siamo molto curiosi di vedere come verrà governata, perché se verrà governata dalle amministrazioni, dal mondo politico, esattamente come è stata governata a fase 1, in Lombardia basti pensare che l'80% delle aziende è rimasto aperto, sappiamo già che cosa ci aspetta. Allora, sono giorni molto frenetici perché stanno arrivando camion da scaricare in continuazione e in contemporanea ne carichiamo altri che vanno a servire le persone bisognose della zona 5 e della zona 6 essenzialmente. E niente, insomma, comunque è un bel progetto che dimostra come la macchina della solidarietà si sia messa in moto e sono giornate abbastanza faticose, abbastanza piene, ma soddisfacenti. Quindi arrivano i camion con frutta, verdura, ogni altro tipo di genere alimentare. Ovviamente la frutta e la verdura cerchiamo di farla andare il prima possibile. E oggi, per esempio, questa settimana dobbiamo fare 500 consegne. E quindi i nostri coordinatori sono molto bravi nel cercare di mantenere questi numeri. La sera, waiting for someone.